del mio lavoro. Rappresenta questi animali solo poverini perché già per usare come un strumento per fare i testing per i nostri prodotti per corpo, per esempio il shampoo, per esempio il profumo, le cose che usiamo nella vita quotidiana, loro molto poveri. Per chiudere nella scatola non si può muovere, per fare il testing con gli occhi, quindi sì, loro fare le cose terribili sugli animali, questo è il mio motivo per fare questo lavoro. Grazie.